Viva Voce con Alessandro Milan. Sono le 9 e 7 minuti, gentili ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire in diretta. La mail vivavoce@radio24.it, sms al 349 238 6666. Come abbiamo sentito in GR24, mancano 5 giorni a una rivoluzione importante sul trasporto, per il trasporto sui binari in Italia. 14 dicembre è la data per tutti, si inaugura l'alta velocità in un'ora da Milano a Bologna in treno, con ovviamente ricadute in termini positivi di tempi anche sul Milano-Roma, su tutte le altre tratte. Mauro Moretti, buongiorno. Buongiorno a lei. Mauro Moretti è l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, benvenuto. Allora, ovviamente parleremo per un'ora con lei di questo, ma non solo, ovviamente quando si parla di treni, come ben sa, si parla anche molto di treni regionali, di treni pendolari, di lamentele spesso che arrivano e ci sommergono. Parliamo prima di una cosa e poi dell'altra. E certo, parliamo di tutto, parleremo anche di liberalizzazioni, insomma parleremo di tanti temi. Le ferrovie d'altronde e i treni sono uno strumento, mezzo di trasporto molto utilizzato dagli italiani. E allora, 800 24 00 24, appunto, per le vostre domande. Sentiamo subito come ha aperto la borsa e poi ovviamente inizieremo questa chiacchierata con l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato. E allora, 9 e 9 minuti alla vigilia di un'importante svolta, di un'importante rivoluzione per le Ferrovie dello Stato. Parleremo fino alle 10 per le vostre domande. 800 24 00 24. Piccola premessa: spesso magari si dice di alcuni dirigenti italiani di grandi aziende, beh, ma certo, non conoscono la materia per la quale lavorano, non conoscono gli strumenti che utilizzano nelle loro aziende. Almeno questa accusa a Mauro Moretti non la si può fare. Lei è nelle Ferrovie da quando? Da 30 anni. Da 30 anni. Quindi le Ferrovie le conosce. È un'accusa comunque che ha qualche fondamento, insomma. L'Italia è uno dei paesi che si distingue per avere al vertice persone che non conoscono la macchina che devono governare. Ecco, questo non si può dire di Mauro Moretti. Detto questo, non le risparmieremo tutte le critiche del caso, dottor Moretti. Sono questo le critiche ad una storia lunga. Bene. Non sono critiche personali. No, personali mai. Allora, 5 giorni mancano a un'ora. Io dico un'ora, però ho visto che alcune prove sono un'ora state e fatte. Cinque. Sì, alcune sono 58 minuti nelle prove. Comunque, un'ora e 5 da Milano a Bologna. Che cos'è? E poi, ovviamente. Un'ora e 5, spiego perché. Sì. Il problema non è tanto l'alta velocità lungo la linea, ma i grandi problemi si trovano all'uscita da Milano e all'entrata a Bologna. A uscita da Milano ci si mette circa 20 minuti, quindi potete immaginare cosa vuol dire. Perché? Perché c'è da compatibilizzare l'alta velocità con tutti gli altri treni. Quindi abbiamo da considerare dei margini per avere la regolarità della circolazione dei treni. E questo è lo stesso anche a Bologna in entrata, ovviamente. Sì. 10 minuti, non 20, ma quasi metà del tempo interessato dal percorso riguarda l'entrata e l'uscita delle grandi città. D'altronde sono... che in quel caso non possiamo andare a 300 all'ora per ragioni se non altro di rumore. D'altronde sono 212 chilometri, si raggiungono i 301 chilometri orari di velocità massima. Senta, cos'è una concorrenza soprattutto sul Milano-Roma al treno, all'aereo, una concorrenza aperta, una sfida lanciata? Prima di tutto è una concorrenza all'automobile tra Milano e Bologna. Un'ora vuol dire che la gente può stare a Milano o a Bologna e lavorare dall'altra parte senza particolari disagi. In fondo un'ora è il tempo di attraversamento di una città come Roma, anzi nemmeno il tempo di attraversamento, Roma ci vuole molto di più. Quindi vuol dire cambiare la vita dei pendolari a media distanza, diciamo così. Poi c'è anche naturalmente un inizio di sfida importante all'aereo sulla lunga percorrenza, perché ci impiegheremo 3 ore e mezza per i treni non stop da Milano a Roma. L'elemento importante è che non c'è solamente un tempo ridotto, ma forse è la cosa più importante, ci sono molti treni a disposizione, c'è un'alta frequenza, la mattina a Milano o a Roma, nelle ore di punta, ogni quarto d'ora parte un treno verso l'altra destinazione. Uno va non stop e l'altro invece ferma a Bologna-Firenze, quindi uno va entro ore e mezza e l'altro entro ore 59. Però l'abbondanza dei treni a disposizione permette di poter arrivare, scegliere e programmarsi il proprio viaggio. Senta, visto che si parla di concorrenza, non è che quando faceva riferimento ci sono tante aziende governate da chi non conosce la materia, si riferiva proprio all'Italia? No, non facevo riferimento a questo, non ci avevo proprio neanche pensato. Oggi sul Sole 24 Ore, non so se hai già avuto modo di leggerlo, un'interessante inchiesta proprio sul futuro dei trasporti con l'arrivo dell'alta velocità ferroviaria Milano-Bologna, una rivoluzione anche sul pendolarismo, appunto molte persone che potrebbero decidere di lavorare a Milano ma vivere a Bologna, perché in un'ora e cinque minuti appunto ogni sera si può fare. Ecco, l'accusa però è questa: riservato il titolo del Sole 24 Ore ai pendolari ricchi, perché gli abbonamenti mensili sono le solite sciocchezze italiane. Mi meraviglio che lo scriva 24 ore. Dice. 24 ore, per poter scrivere queste cose dovrebbe prima fare un'indagine, e invito a farlo, di quanti sono i prezzi sia per i treni a alta velocità che per i treni regionali in Italia e fuori Italia. Poi ci mette pur dentro anche la puntualità e troverà delle cose spettacolari. Non è possibile che in Italia dobbiamo sempre massacrare le cose nuove che si fanno per la solita poltiglia che non riusciamo a risolvere. Sono due servizi diversi, affrontiamoli come due servizi diversi. Questo è un servizio aggiuntivo in più rispetto a oggi, a ieri, anzi lo sarà dal 14, dovremmo non farlo forse? No, ma devo dire che io le ho letto il titolo, non è nell'articolo, non è assolutamente un massacro come dice lei. È demagogia pura volere distinguere ricchi da poveri con un'alta velocità ai prezzi ai quali noi offriamo. Questo è un treno che va bene per tutte le persone che devono lavorare, non certo ricche, e che troveranno in questo un grande risparmio rispetto ad andare da Bologna a Milano in automobile. Allora ce li dica i costi, così io li appunto e vediamo anche sugli abbonamenti quello che ci può dire. Sulla Milano-Bologna, per esempio. Sulla Milano-Bologna non ricordo neanche le tariffe, ho in mente quella della Roma-Milano, che però naturalmente ha ancora più senso. Sono 79 euro seconda classe, 109 euro in prima classe. Questi sono i prezzi massimi che faremo. In questo mese, dal giorno in cui parte, un mese con uno sconto 10% per tutti i treni, e quindi siamo sotto i 100 euro in prima classe e siamo a livello di 70 euro per la seconda classe. Poi abbiamo messo un abbonamento che è di grandissima importanza, soprattutto lei pensi a Bologna-Milano. Bologna-Milano un abbonamento lo si calcola così: normalmente in un mese ci sono 44 corse mensili, se uno fa un'andata e ritorno al giorno, tra Bologna e Milano in verità si potrebbero fare anche due, e invece di 44 corse facciamo pagare 10 corse, cioè circa il 20% dell'intero prezzo. Se uno fa invece l'andata e ritorno lo stesso giorno per treni superiori a 3 ore e mezzo paga 35% di sconto. Come vedete è difficile pensare a prezzi da ricchi. Perché i tassi in Italia sono dei super ricchi, visto che solamente un'andata in una città normale sono 40 euro. Guardi, mi dica, perché oggi solo le 24 ore dice l'abbonamento mensile, per esempio sul tratto Bologna-Milano, è prima classe sui 500 euro, seconda sui 400 euro, sono cifre veritiere, immagino sì, al mese. Non mi pare sia questa cifra qua. 500 euro in prima classe. 500 euro Milano-Bologna, l'abbonamento mensile. Non ho la cifra sotto mano, non mi pare sia questa cosa qua. Perché se fosse 400 euro, insomma, è comunque. Certo, bisogna spostarsi, in macchina sarebbe la stessa cosa, però è una bella cifra. Adesso io le chiedo a lei: lei sa quanto costa andare da Bologna a Milano in automobile? Tre volte tanto. Immagino, la benzina, l'usura. Allora, se andate in Germania costa due volte e mezzo, se andate in Gran Bretagna tre volte. 350 chilometri in Gran Bretagna, non in alta velocità, costano andata e ritorno 400 sterline. Non riesco a capire quale sia il motivo per cui l'unica cosa che in Italia deve costare poco sono i treni, nessuno si lamenta dell'elettricità, del gas e di tutto quello che c'è, per non parlare di altri servizi a volte osannati. Credo che per poter fare una critica corretta si devono fare i confronti ormai europei, tutto il resto sono chiacchiere. Guardi, intanto per quel che riguarda il confronto, se la consola, noi faremo un confronto il 15, ma una prova così su una corsa che non fa certo statistica. Faremo partire con un treno dell'alta velocità un nostro collega e con la macchina contemporaneamente allo stesso orario sulla Milano-Bologna, vedremo chi arriverà prima. È molto molto poco statistica, se vuole, però è una prova che insomma cercheremo, faremo questa prima quello dell'automobile. No, credo che arriverà prima quello del treno. Poi dipenderà anche dal traffico, dalla fortuna. Sicuramente anch'io scommetterei quello sul treno, ecco. Non capisco la prova, comunque va bene. Beh, ma una prova per vedere, insomma, se io volessi prendere la macchina. La cosa che deve fare è mettere dentro quella macchina tutti i costi, dall'acquisto dell'automobile alle assicurazioni, alla benzina, a tutto quello che c'è sopra. No, questa è una prova solo di tempo, effettivamente. No, non ci sono una questione di costi. Non credo ci siano delle grandi da aspettare molto, insomma. Immagino che sia il doppio di tempo. Vincerà il treno sicuramente. No, ma infatti. Ma voglio dire, le farà piacere anche per questo. Per prestare il servizio nel rapporto qualità-costo, occorrerebbe mettere a disposizione il tempo di percorrenza e il costo. E poi fare la stessa cosa per l'automobile. Certo. Moretti, sarà una svolta, secondo lei, potrebbe essere una svolta anche culturale? Cioè, secondo lei gli italiani si sono un po' disabituati a prendere il treno e potrebbero riabituarsi a prenderlo di più? Ma guardi, gli italiani prendono il treno più o meno come negli altri paesi, visto che noi facciamo ogni anno 45 miliardi di passeggeri chilometro, e se li rapportiamo a quella che è la popolazione tedesca, non è che sia grandissima differenza rispetto al traffico che svolge Deutsche Bahn in Germania. Sicuramente in questo caso avremo un qualcosa che non è semplicemente un'esperienza di viaggio, vuol dire dare la possibilità di poter cambiare lo stile di vita. Lo stile di vita vuol dire fare programmi per la propria vita avendo a disposizione un mezzo potente non solo, ripeto, per la velocità sulla quale lei si è molto soffermato. Io enfatizzo l'aspetto della frequenza, cioè mettere sul Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, per le queste città, un treno che parte ogni quarto d'ora, ogni mezz'ora nelle ore di morbida, vuol dire che in qualsiasi momento uno ha un mezzo da spostarsi in maniera veloce. Ma il premio lo faccio sulla frequenza, perché come ho detto questa rappresenta una specie di metropolitana per l'Italia. Noi non siamo un paese come la Francia con una Parigi che è radiocentrica rispetto a tutte le varie piccole città che c'hanno attorno. Noi siamo un sistema lineare policentrico. E nel mettere un'alta velocità a disposizione di questo sistema urbano policentrico, riposto su questa direttrice centrale, vuol dire mettere in relazione grandi città, mettere in sinergia grandi città, i popoli che stanno dentro. Le famose operazioni che si sognavano quando si parlava di Mito o di Fibo o di altri bipoli di cui sempre si è parlato, finalmente possono venire a trovare una loro costruzione reale, mettendo in sinergia quelle che sono le funzioni più avanzate dell'una e dell'altra città e quindi in questo caso facendo sì che i nostri centri di eccellenza possono anche moltiplicarsi. Allora 800 24 00 24, ovviamente stanno già arrivando tanti ascoltatori, tra poco cominceremo con loro. Le chiedo, Moretti, l'Unione Europea ha sbloccato i finanziamenti per il tratto del Torino-Lione, quello nel quale abbiamo visto un paio d'anni fa alcune contestazioni, ce ne sono ancora, devo dire, di minore entità dal punto di vista numerico. Che contestazioni, lei come le vede queste contestazioni? Sono datate, sono sbagliate, sono una difesa del territorio anche se vuole giusta? Beh, intanto vorrei partire con una considerazione un po' lontana. Noi stiamo facendo ferrovie in tutta Italia e di contestazione ne abbiamo quasi nessuna. Si sta facendo un'opera altrettanto grande, anzi più grande, tra Bologna e Firenze. Certo ci sono stati problemi, contestazioni, ma sono stati risolti, governati, ragionando con le autorità locali e con le popolazioni locali. Tra Firenze e Bologna quest'altro anno, dicembre di quest'altro anno, completando l'opera dell'alta velocità italiana, apriremo quel pezzo di tratto che è di 90 chilometri e su 90 chilometri sono 72 chilometri di galleria. Non è un'unica galleria, sono vari pezzi di galleria, ma è pur sempre un'opera enorme, perché laddove non c'è la galleria c'è un viadotto. Per dire la complessità di un intervento dentro un territorio. Stiamo facendo una cosa simile sul Brennero. Sul Brennero stiamo facendo un'opera altrettanto grande di quella del Frejus, è già partita, sapete che c'è già una grande fresa che sta iniziando a bucare la galleria del Brennero, è partita in primavera di quest'anno e stiamo andando avanti. La situazione della Val di Susa è più complessa per una più difficile il rapporto con la popolazione, però gradualmente con il coinvolgimento della popolazione sta ritornando ad essere una situazione più gestibile, diciamo. Però lei dice solo lì, perché secondo lei solo lì questo tipo di manifestazioni un po' più dure rispetto ad altrove? Ma probabilmente perché sono stati fatti una serie di progetti. Del progetto Val di Susa se ne parla ormai dal 1980, dagli anni 80, e quindi è una cosa che si è prolungata per molto tempo, probabilmente non avendo a disposizione la possibilità concreta di poter presentare progetti, si è creato una situazione di contrapposizione non fondata su degli elementi concreti. Poi di volta in volta c'è stato anche qualche effetto, qualche posizione, come dire, un po' provocatoria, penso quando si parlava della radioattività o di cose simili. In verità ci sono dei graniti, sicuramente c'è un po' di radioattività, ma ce n'è meno che a Roma, dove c'è il tufo, tanto per dare il senso della cosa. Sì. Allora, il primo ascoltatore, Carlo da Alessandria, buongiorno. Buongiorno. Mica. Allora, prima di tutto grazie per avermi chiamato. No, grazie a lei per avermi chiamato. Allora, prima complimenti per la velocità che finalmente l'abbiamo anche in Italia, quindi bisogna fare complimenti, perché 10 anni fa viaggiavo, ricordo, andavo giù a Lione e viaggiavo col TGV in tratta francese, poi arrivavo nella tratta italiana e mancava il nostro alta velocità. Però fatto questo, i complimenti, devo a questo punto fare una domanda che mi ha sorpreso. Con la partenza, e se me lo vuole confermare l'amministratore delle ferrovie dello Stato, la partenza dell'alta velocità tratta Milano-Roma va benissimo, volevo chiedere se è vero, da come sto vedendo sugli orari, i nuovi orari, che gli altri Eurostar che sono sulle tratte collaterali, ad esempio io uso spaventissimo fino in questi giorni, da Alessandria a Roma, gli Eurostar, che ce n'è uno che parte alle 7.24 sì, al mattino e arriva alle 12.20 a Roma, e poi c'è l'equivalente che parte al pomeriggio alle 17 e arriva circa alle 23, sì, quelli verranno aboliti. A quel momento io mi trovo sulle tratte collaterali a non avere più, a non poter più usufruire di questi treni che avevano anche un prezzo, e qui devo confermare con l'amministratore, abbordabile, avere un mezzo per poter arrivare a Roma, come me tantissimi altri, che si trovano completamente spiazzati. Perfetto. E ritorniamo a viaggiare con circa 2 ore in più per poter arrivare. È stato chiarissimo, Moretti, verranno aboliti, la preoccupazione di questo ascoltatore d'Alessandro. Non so con precisione l'Eurostar a quale fa riferimento il nostro ascoltatore. Noi stiamo razionalizzando tutto il servizio di tipo Eurostar, non c'è dubbio. Questo è dovuto al fatto che, lei ha accennato prima, c'è una liberalizzazione. La liberalizzazione vuol dire che c'è un mercato e dobbiamo riuscire a fare i conti dove i treni riescono a ripagarsi con gli incassi dei clienti, visto che lo Stato non ci dà nessun tipo di contributo, e dove questa cosa non accade. In passato questo tipo di ragionamento non è stato fatto e abbiamo disseminato Eurostar in tutta Italia, in maniera anche un pochettino strana, nel senso che abbiamo costruito una rete senza criteri, paesi con 1500 persone che si trovavano ad avere i servizi Eurostar, ovvero città con 200.000 che non ce l'avevano. Stiamo ricostruendo dei criteri, i criteri sono molto semplici, cerco di enunciarli. C'è una rete di base di servizi di base, che sono i servizi regionali, questi sono peraltro di competenza delle regioni, che devono programmarli, determinarne la quantità, i volumi, gli orari e così via, e questi sono treni che hanno una fermata ogni 10 km mediamente. Esiste un secondo livello, ci sarà un secondo livello, quello della rete dei servizi più o meno a livello provinciale, e quindi servizi che sono quelli di tipo Intercity Plus, e sono quelli che hanno fermata ogni 40 km più o meno. Poi c'è la rete degli Eurostar, che è la terza rete, un po' più alta, che deve avere bacini grandi e percorrenze più ampie di quelle che ho detto, proprio perché deve nell'insieme determinare un sistema di servizi integrati. Ed è tutto evidente che se facessimo fermare gli Eurostar in tutte le città non avremmo i servizi Eurostar. Elio ci chiede via mail, o meglio via voce radio24.it, se è prevista per il futuro un'alta velocità sulla dorsale adriatica, Moretti. No, non è prevista, lo dico subito per evitare che la gente si faccia illusioni. Non è prevista per un semplice motivo: sulla rete adriatica, io sono anch'io dell'Adriatica, vengo da Rimini. Purtroppo da Bari a Venezia, di città che superano i 300.000 persone, ce ne sono due. La mia bella Rimini, che è la terza città, ha 130.000-140.000 persone, poi ha un grande vantaggio grande numero di persone per l'estate. Per poter fare queste cose qua ci vuole una concentrazione minima, altrimenti i treni rimangono vuoti. L'unica che garantisce in Italia una concentrazione minima è appunto la centrale, la direttrice centrale, più l'altra parte, la Torino-Venezia, in particolare Milano-Venezia, e il pezzo che dobbiamo ancora fare ed è importantissimo. Devo però dire che sia i cittadini che stanno sulla media adriatica, penso Ancona, Rimini e così via, arrivare a Bologna ci vogliono 2 ore, ovvero quelli che stanno sotto Foggia, l'alta velocità per loro ha un altro percorso che già quest'anno inizia a delinearsi. Impiegheremo 3 ore e 59 ad andare da Bari a Roma. A quel punto da Roma si può pigliare l'Eurostar più 3 ore e mezzo per arrivare a Milano. Se faremo, e nei progetti c'è, come è noto, il sistema di alta capacità, alta velocità anche tra Napoli e Foggia, e cioè abbasseremo ancora di più la percorrenza di un'altra ora circa, capite che il sistema alta velocità per quella zona, cioè la Puglia, regione molto importante e molto popolata, avverrà nella connessione con la direttrice centrale dell'alta velocità. Moretti, la finanziaria credo che vi abbia dato 300 milioni, e questa è corretta la cifra? No, la finanziaria ci ha dato di più. L'ultimo decreto ci ha dato dovrebbe darci 480 milioni per i servizi universali, così come gli altri che ci hanno stati dati precedenti. In verità non sono poi quelli che servono a coprire l'intera partita dei servizi universali. Ci vorrebbe, secondo lei, un aumento dei prezzi? Il ministro Matteoli di recente, ha detto che le FS l'hanno chiesto, ma il governo dice di no, che le scelte strategiche sui trasporti ferroviari non le fa l'amministratore delegato delle ferrovie, cioè lei, ma il governo. Questo è giusto. In particolare per i servizi universali li deve fare proprio il governo con le regioni. Noi siamo in questo caso un fornitore. In relazione alle risorse finanziarie che vengono messe a disposizione, noi possiamo creare servizi. Matteoli però lo diceva forse in polemica, cioè dire non ci sarà un aumento dei prezzi, come dei biglietti, come vorrebbero le ferrovie. No, non credo sia polemica, perché il ministro sa bene quali sono i problemi delle ferrovie. Noi riusciremo quest'anno a arrivare faticosamente vicino al pareggio, ma se le cose non saranno alimentate nel modo giusto ritorneremo indietro, e quindi quando un'azienda è in difficoltà poi va male per tutti. In verità qual è il problema? È che non possiamo tenere delle tariffe basse, avere bassi contributi dello Stato e fare servizi di alta qualità. Questa cosa non regge. Noi in Italia prendiamo la somma tra tariffe o abbonamenti e i contributi dalle regioni, prendiamo circa 11,5 centesimi di euro per un passeggero che si muove per un chilometro. In Germania ne pigliano 20, in Francia ne pigliano 22. In più in Francia gli comprano anche i treni nuovi, i materiali rotabili, lo comprano direttamente le regioni e lo Stato, e quindi vuol dire l'equivalente di 26. Sì. Capite che la differenza tra 11,5 e 26 non può essere, come dire, se non qualità. E soprattutto la qualità vuol dire in questo caso nelle grandi città, nelle ore di punta, non avere treni in numero sufficienti per star dietro alla domanda. Questa cosa produce grandi problemi, perché poi i grossi affollamenti vuol dire che dopo poche stazioni i treni sono pieni, sono presi d'assalto e sono pieni, e da quel momento, prima di arrivare alla città di destinazione, penso a Milano, penso a Roma, ogni fermata sono un minuto e mezzo di ritardo, 10 fermate sono 15 minuti, da ciò si capisce anche il problema dei ritardi. Guardi, allora adesso introduciamo per dargli il senso di quello che dico, consideri che il trasporto regionale delle corriere, dei bus extraurbani, cioè quelli che girano per le campagne, prendono tra tariffe e contributi dalle regioni 15,5, cioè 4 centesimi di euro in più, 40% in più per intenderci. Gli abbonamenti costano il 30% in più, così come le tariffe. Mi pare un po' incredibile che si voglia pensare di avere sistemi ferroviari efficienti e di qualità se non ci sono i soldi per poterli pagare. Allora, visto che insomma introduciamo la questione pendolari, c'è un altro ascoltatore, ma prima le leggo una mail. Mail molto dura e critica, ascoltatore, poi risponderà a entrambi. È interessante, ci scrive un ascoltatore che si firma col cognome, notare come Moretti dimentichi i disagi di chi peggiorerà esponenzialmente i propri orari giornalieri per recarsi al lavoro, sarà costretto a pagare 2 abbonamenti diversi per poter rientrare a casa a un orario decente. Tutto questo a fronte non di una pompa una puntualità, come afferma pomposamente Moretti, ma ritardi che sui tabelloni sembrano campi di battaglia, 50 minuti da Milano Centrale a Rodi con Eurocity, informazioni che non vengono date, pulizia dei treni da fa schifo e così via. Insomma, il tema è questo. Sentiamo anche Luca da Treviso, così entriamo sulla questione delle lamentele quotidiane, insomma ci inondano anche noi nelle redazioni in maniera positiva di lamentele i pendolari. Luca da Treviso, buongiorno. Buongiorno. Di che? Anch'io sono un pendolare che ha preso il treno su una tratta breve tra Treviso e la linea di Montebelluna. Sì. Ecco, vanno soppressi anche i treni a volte, non solo in ritardo, è su una tratta che fa capolinea tra le due località. Io mi chiedo, a parte il disagio che si creano, i ritardi enormi per poi andare al lavoro, però non c'è neanche un rimborso poi. Io ho chiesto, ma non si può, a causa di questo grave disservizio, dare anche un rimborso a chi adopera il treno, che lo adopera per motivi di lavoro, non per divertimento? No, non è previsto. Ma come non è previsto? Lei comunque da pendolare la vede, insomma, sono obiettivamente più i giorni di disagio, più i giorni in cui va tutto bene, Luca? Ci sono anche dei ritardi non sistematici, ma con una certa regolarità vengono. Cioè, va bene. Va bene. Oltre ai ritardi c'è anche la soppressione e non c'è il rimborso. Moretti, lei ha sempre respinto al mittente, cioè alle regioni, insomma, la responsabilità primaria della questione dei pendolari. Però i pendolari, lo sa anche lei, insomma, si lamentano quotidianamente e con molta forza su ritardi, soppressioni, insomma. Un'Italia a due velocità più che ad alta velocità? Ma c'è un'Italia che deve essere affrontata. Il problema del trasporto regionale ferroviario è un problema che la politica deve affrontare, come diceva giustamente lei. Non è, se non la deve fare giustamente la Ferrovia dello Stato, la politica la devono fare le regioni, in particolare con lo Stato centrale. E per fare politica, ripeto, occorre avere le risorse sufficienti per poter fare queste cose. Tenga presente che poi bisogna affrontare anche il problema dei biglietti. In Italia si paga meno della metà di quello che si paga in Germania, un terzo di quello che si paga in Francia, un quarto di quello che si paga in Gran Bretagna. Quindi lei vorrebbe prezzi più alti dei biglietti? No, io dico semplicemente che le regioni possono decidere le tariffe che vogliono, le possono anche mandare il trasporto gratuito, però dopo devono metterci i soldi loro, che naturalmente vengono fuori dalle tasse degli italiani. Cioè, anche qui, e specialmente lo dico a voi giornalisti, questo piccolo sillogismo bisogna che qualcuno lo faccia. Non è che si producono i soldi all'interno delle ferrovie. O lo paga direttamente il passeggero che usa il servizio, o lo paga il cittadino con le tasse, ma alla fine occorre arrivare a quella che è la situazione media dell'Europa. Non si può stare al 50%. Tenga presente che il precedente commissario dei trasporti, prima dell'onorevole Tajani, Barrot, scrisse una lettera a Prodi, dicendogli che le tariffe in Italia erano talmente basse che era impossibile fare servizi. Molti pendolari dicono però a fronte di quale servizio? Cioè paghiamo più biglietti? Anche su questa partita qui, perché come dire, di favole ce ne sono molte. E naturalmente è del tutto evidente che vi sia l'esaltazione solamente dei disservizi. Se lei prende le pagine dei giornali francesi o tedeschi o inglesi ne troverà altrettanto. Non credo ce ne siano di meno. Vabbè, perché uno paga, giustamente paga. Uno paga e quindi ha diritto a un servizio puntuale. Là le lamentele sono uguali, con dei prezzi che sono due o tre o quattro volte più ampie. Quindi c'è un po' di differenza. Vengo ai problemi del due abbonamenti. Non so a quale cosa si riferisce. Ci sono degli abbonamenti che sono legati al regionale. E se uno vuole servizi solo regionali, si fa l'abbonamento del regionale. Non so, da Brescia a Milano sono 78 euro, d'accordo? Se uno invece vuole usare anche il treno Eurostar per tornare a casa e vuole scegliere la mattina di andare con l'Eurostar e la sera tornare con il regionale o viceversa, è del tutto evidente che non può pagare solamente il treno regionale, perché stiamo parlando di due servizi fatti per due mercati diversi che vengono prodotti in maniera separata e che però devono essere messi a disposizione dalla stessa persona, che li sceglie come e quando vuole. Beh, come dire, cosa dovremmo fare noi in questo caso? Perché di questo passo si può dire che con 78 euro si va anche con l'abbonamento dell'alta velocità. Allora la risposta alla sua prima domanda è già conclusa. Anche qui bisogna essere chiari. Abbiamo voluto la liberalizzazione in Italia, sì o no? l'abbiamo voluta, non c'è nessuno che dice che non deve esserci. Neanche lei dice un bene. Neanche io, anche perché io dove c'ho il mercato ho pochissimi problemi. I problemi se io devo fare dei contratti di servizio, ad esempio, con le regioni. E l'abbiamo visto anche di recente. Mi lasci dare un ascoltatore ancora? Però scusi. Per quel signore che ha posto i primi avviamenti, noi abbiamo fatto una proposta che è in discussione ed è stata accettata ormai dalle regioni. Abbiamo detto che quando uno vuol fare tra, ripeto, Brescia e Milano, vuol prendere tutti i tipi di treni possibili che girano su quella tratta, noi gli abbiamo detto che devi pigliare l'abbonamento dell'Eurostar City, in quel caso è il treno che gira l'Eurostar, il livello più alto che gira sulla tratta, 116 euro mensili, più 5% dell'abbonamento regionale, 120 euro. Chiedo a lei, 120 euro mensili per poter andare da Brescia a Milano con tutte le categorie di treni, sono pochi o sono molti? E se sono molti, mi dica in giro per il mondo dove si trova. Maurizio da Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Premetto che sono anch'io un cliente quotidiano delle ferrovie, essendo un pendolare, ma volevo ritornare un attimo sul discorso dell'alta velocità, capire una cosa: tutte le offerte ci sono state ora evidenziate, sono riferite tutte a un traffico business, a un traffico per lavoro, ma dove effettivamente può darsi che le tariffe che sono offerte sono competitive con il trasporto in macchina. Ma per quanto riguarda invece turismo, famiglie si spostano, quando io mi muovo per quattro persone probabilmente le tariffe ci sono state prima proposte non sono così competitive. È interessante, cioè lei vorrebbe e vuole capire se ci sono in previsione degli sconti, delle tariffe, esatto, speciali per chi si sposta in tre o quattro. Io sono di Firenze-Roma, mi costa 75 euro andata e ritorno singolarmente, ma quando mi sposto con tutta la famiglia vado a spendere... No, è chiarissimo. Moretti... Soprattutto sulla delle tariffe anche per le famiglie, basta andare sul nostro sito internet e troverai gli sconti per le famiglie. Mi permette anche qui di dire una cosa, così anticipo eventualmente la domanda di qualche francese. Noi non abbiamo gli sconti che hanno in Francia per le tariffe, perché in Francia lo sconto famiglie e ferrovia è prevista da una legge dello Stato, che tra l'altro Sarkozy ha cercato di rimuovere e c'è stata la rivoluzione, per cui lo Stato paga la ferrovia, l'SNCF, una quota di quello che loro non pigliano direttamente dalle tariffe. Come vede, ci sono vari motivi, ma non si possono confrontare sempre le cose se non c'è una parità di condizioni nell'esercizio. Noi dobbiamo cercare di fare l'impresa nel migliore dei modi. Poi parlerò delle pulizie. Sì, guardi, sulle pulizie. Moretti, prima di parlare delle pulizie, mi lasci tornare un attimo alla questione alta velocità, visto che parte tra cinque giorni. Lei la CAI come la vede? Come una concorrente? Questo l'abbiamo già detto. Ci sono anche delle stime? Cioè, voi pensate di sottrarre una quota? E che quota di mercato all'aereo? Ma noi pensiamo di arrivare in breve tempo, in 2 anni, al 60%. 2 anni vuol dire, considerando anche il prossimo, quando taglieremo un'altra mezz'ora tra Roma e Milano, avendo completato il pezzo di tratta tra Bologna e Firenze. A quel tempo tra Roma e Milano ci saranno 3 ore. Devo dire anche che oltre al Roma-Milano, di cui si parla molto, non si parla di servizi che inizieranno sempre il 14 di dicembre, che vi dico in poche parole. È una sorta di stella attorno Roma, dalla Lamezia Terme a Roma 3 ore e 59. Tra Bari a Roma 3 ore e 59, tra Venezia e Roma 3 ore e 59, Verona a Roma 3 ore e 59, Genova a Roma 3 ore e 59. 3 ore e 59 è la percorrenza tra Milano e Roma con le fermate da Bologna a Firenze. Come vedete, quindi, non c'è solamente una città con un aeroporto interessato. In verità stiamo costruendo un servizio integrato, una stella attorno Roma, un'altra stella attorno Milano, i due hubs fondamentali, che sono messe in relazione tra loro in maniera veloce, ma attorno a ognuno di questi, penso Milano, in 2 ore si arriva a Venezia, si arriva praticamente ormai a Firenze, si arriva oltre verso Zurigo, si arriva al confine francese e così via. D'altra parte però, Moretti, il diario che ci manda di pendolari tutti i giorni è sempre quello di treni in Sardegna. Non può continuare a mettermi in questa partita. Sono due cose diverse, però parliamo anche di queste. Di insardinamento dei convogli. Sono due cose diverse. Io, ripeto, non faccio la programmazione dei treni. Se, come vi ho detto, mi danno 100, faccio treni per 100 euro. se me ne danno 1000 faccio treno per il discorso euro. Fila, capisce che purtroppo in mezzo ci sono i passeggeri che pagano un biglietto. Lei dice non è colpa mia, dalle regioni diranno non è colpa mia, però no. Chi paga, cioè chi ci rimette alla fine nei coi disagi sono purtroppo gli utenti, insomma i clienti, quelli che viaggiano tutti i giorni, e sono loro in mezzo a questo meccanismo che stritola. Ma se si fa una politica ancora a sostegno dell'automobile in Italia, io non ci posso far nulla. Allora, bisogna che venga cambiata un po' questa storia. Allora, veniamo alla questione della pulizia. A disposizione quante ce ne sono in Germania e in Francia, dopodiché si girerà alla stessa maniera. No, certo, se ci sono le risorse, ci sono servizi. La questione pulizia, io so che voi avete lanciato tutte delle nuove gare per rinnovare, insomma, la questione del servizio sì, della pulizia. Cosa. Prima sì. La puntualità, che è un signore l'avvocato. Certo. Noi abbiamo puntualità che dipende da noi, puntualità che non dipende da noi. Voi dovete sapere che ogni giorno, ogni settimana, Napoli Centrale viene fermata per 4 volte per occupazioni. Da Milano a Napoli questa cosa succede una volta al giorno. È chiaro che ogni volta che succede questa, tutto il sistema si ripercuote. Beh, però non sa, le questioni universitarie ultimamente hanno occupato tutte le stazioni ripetutamente. Ne abbiamo parlato, non sarà quello però la causa primaria dei ritardi dei treni. Guardi, tra questa partita, tra i suicidi, tra tutte le partite, non è la causa primaria. Sono quei 4-5 punti che sempre ci sono. Questo certo. Dopodiché noi, quando andiamo a togliere queste cause, che però sono disastrose quando capitano, sì. Non è che sia questione di qualche minuto. Queste sono quelle cose che fanno arrabbiare moltissimo, perché qui scattano le ore, scattano. Noi per il resto, in termini di puntualità, misurata con gli standard che sono di tipo europeo e con le stesse cause attribuite a noi, ovvero non attribuite a noi le cause esterne, siamo a 90% nel trasporto locale in 5 minuti e siamo a 92% nell'Eurostar in 15 minuti. La questione pulizie. No, ma certo, visto che siamo un po' alle battute finali, Moretti. Un suo collega, Orazio sì. Carabini, sì. Che mi ha mandato un giorno un messaggino, mi ha detto: sono arrivato a Berlino, 59 minuti di ritardo. E ho detto: fatti dare il rimborso. Peccato, perché qui parte il rimborso. Qui danno dopo un'ora. Lei sa che da noi viviamo dopo 25 minuti. Sì. Le pulizie, senta, ma è vero, lei ha detto di recente che avete fatto tutte le nuove gare, ci sono stati dei ricorsi al TAR, eccetera, ma al di là di questo, che addirittura ci sono state minacce, stile, che non vanno molto lontano dallo stile mafioso per la questione delle pulizie? Ma le pulizie da noi sono una questione antica, perché i treni purtroppo non sono puliti o non sono puliti a sufficienza, o perlomeno non tutti i treni, alcuni... Però l'alta gamma riusciamo a mantenerli abbastanza puliti troppo tempo. Io appena insediato ho chiamato le ditte e gli ho detto che avevano un lasso di tempo per rimettersi a posto, hanno dei contratti regolari fatti, delle gare che avevano vinto di recente, e quindi avevano diritto di dover rimettersi a posto. Questa cosa non è capitata, dopodiché abbiamo fatto degli assessment con delle aziende di assicurazione qualità affinché fosse chiaro e fosse anche formalizzato che questa cosa non funzionava, e di che siamo partiti per fare nuove gare. Le nuove gare sono partite in 5 regioni, a dicembre le più grandi regioni, a dicembre affideremo ai nuove ditte la pulizia, da gennaio materialmente questi inizieranno a pulire, dalla fine di gennaio. Stiamo partendo in questi giorni, anzi siamo già partiti nel fare le gare europee per le altre regioni che completeranno il loro ciclo verso maggio. È una di quelle battaglie storiche che ci siamo sentiti di fare nonostante i problemi che anche lei richiamava. Ma lo stile che c'entra? Che è lo stile mafioso? Cioè, che vuol dire? Abbiamo avuto della gente che ha avuto le auto massacrate, abbiamo avuto la gente che si è trovata a casa delle cose in cassette di legno che ricordano quelli che sono gesti di quel genere là. Questo è. Cioè gente che gestisce all'interno delle ferrovie queste novità, queste nuove gare, queste... Dirigenti normali, soprattutto in periferia, dove sono un pochettino più in difficoltà, e si può ben capire, in qualche territorio in particolare, sono sempre gli stessi territori. Mi lasci dare un ascoltatore, Samuele da Brescia. Io vorrei porre molto l'accento su questo, vorrei dire un'altra cosa però, che questa ferrovia ha trovato il coraggio per fare delle gare. Finalmente, invece di avere 2 o 3 concorrenti, ne abbiamo 90, che è la dimostrazione che è una gara perfettamente aperta e trasparente. I partecipanti non potranno da soli avere tutto il sistema delle pulizie nazionale, potranno avere al massimo per ogni regione 2 su 5 lotti e su tutte le 5 regioni messe in gara potranno averne 3 di lotti, il che vuol dire avere un sistema molto più adeguato, avere anche delle ditte che arrivano seconde, terze e quarti, in modo che se la prima non funziona possa passare alla seconda, cosa che oggi non esiste. Samuele da Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno. Sia breve gentilmente, che siamo di fretta in chiusura, come un treno che sta arrivando, dica. Sì, esatto. Guardi, io prendo il treno da Brescia a Milano, come me e alcuni miei colleghi, e il problema delle tariffe e dell'aumento delle tariffe è un po' falsato, perché le faccio un esempio: il treno delle 8.05, che era un Intercity, hanno messo la prenotazione obbligatoria, prima non c'era, quindi il prezzo del biglietto, pur non essendo variato, è aumentato. Di quanto? Treno, di 1 euro, la prenotazione è 1 euro a viaggio, ok? Quindi se lei è un pendolare, sale sul treno e vuole il posto prenotato, deve pagare 1 euro per ogni viaggio. Uno. Secondariamente, questo treno verrà sostituito da un Eurostar. Io pago 101 euro di abbonamento mensile, che non reputo un prezzo alto, che arriverà però adesso a 147 euro, perché è diventato un treno Eurostar. Perfetto, è stato chiarissimo. Moretti, che replica? Cioè, l'aumento dei prezzi è stato fatto così, treni. Dice. Certo. C'è un treno di più alta qualità che purtroppo deve essere pagato. Noi abbiamo fatto un accordo, ripeto, con la Regione Lombardia, che da Brescia a Milano fare un abbonamento Eurostar City costa 116 euro. Se uno vuole pigliare, oltre che Eurostar City, anche tutti i treni che stanno sotto la classe di quello, i regionali, gli Intercity e così via, paga un più 5% di 78, cioè 120 euro. Credo che se uno fa i conti, vuol dire poco più di un caffè al giorno. Moretti, abbiamo un minuto. Non credo sia il caso di lamentarsi. Abbiamo un minuto. Si arriverà e la partita, qualcuno dice, sindacale più dura. Prima su questo caffè al giorno, la prego. Vabbè, ma non è il mio ruolo, l'ha già detto lei, il caffè al giorno. Continuiamo a coltivare nella gente il senso del diritto che è infondato. Ma guardi, non è il mio ruolo esprimersi, si esprime lei che è l'ospite, risponde agli ascoltatori. Mancano 30 secondi. La battaglia sindacale sarà quella del macchinista unico, la prossima? Ma io spero che non sia una battaglia. Abbiamo speso 4 miliardi in tecnologie, le tecnologie nostre sono le migliori del mondo, garantiscono la sicurezza di cui siamo campioni mondiali, questo è un elemento di qualità di cui nessuno parla, ma insomma è quello che costa di più e che fa più senso per le ferrovie. Stiamo discutendo con i sindacati per poter fare una sperimentazione per passare al macchinista solo. Sono convinto che i sindacati arriveranno a delle conclusioni positive, perché è antistorico pensare di non farlo. Dice. In tutto il mondo ce n'è uno, le ferrovie Nord Milano ne hanno uno e sono anche senza la nostra tecnologia, perché noi non dovremmo averlo. No, io le faccio gli auguri su questo, temo che ci sarà una battaglia sindacale, ma spero di sbagliarmi, insomma, per lei e per tutti noi. Va bene, la ringrazio. Mauro Moretti, amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, di essere stato con noi. Potete riascoltare la puntata ovviamente online. E i ringraziamenti in redazione ad Alessandro Marco Tulli, Elisabetta Fusconi, Giorgio Matè in regia, con Viva Voce domattina. Viva Voce.